Não, can castelo, sussurrando na quena, guarra tapinha, tamaia, e minha santo ideia, do cerre a pilum e calapau, mate não, can baroninha, su que é coco meu de nantas tria, tantas paralas, arquilite, malete uma história, uma vunti, tantas paralas, sa gente vai restrange, uma estranja com sisola, e do e gente que cerre das coisas, com seu nome, com seu sangunão, e do e gente meda diferente, tenta cruzando, te bregar. Gente de mari, gente cuile, queste dai a cabe Zuzesa, isole di un'isola, Gesù isole, messi isola, ten tin tin ta. E buonasera, allora non è per caso che adesso parliamo e sentiamo Rosella Fa, una cantante sarda, perché si parla della Sardegna? Sì, è una lettera di una compagna sarda, un appello per una partecipazione femminista e lesbica, gay, trans, queer, alle iniziative antimilitariste contro la Trident Juncture. Una lettera che comincia con una poesia di una compagna appunto sarda, una poesia di Gloria Anzaldúa. In quanto mestizza, non ho paese, la mia patria mi ha esclusa. Eppure tutti i paesi mi appartengono, perché di ogni donna sono la sorella o l'amante potenziale. In quanto lesbica non ho razza, il mio stesso popolo non mi riconosce, ma sono tutte le razze, perché in ogni razza c'è il diverso in me. Sono senza cultura, perché in quanto femminista sfido le credenze collettive, culturali religiose, di origine maschile, tanto degli indoispanici quanto degli anglos. Eppure sono piena di cultura, perché partecipo alla creazione di una cultura ulteriore, di una nuova storia del mondo e della nostra presenza in esso, di un nuovo sistema di valori le cui immagini e simboli ci connettono le une alle altre ed al pianeta. Sono un ammassamento, sono l'atto di impastare, di unire e di mettere insieme, da cui ha preso forma una creatura che appartiene sia al buio sia alla luce, ma anche una creatura che mette in discussione la definizione di luce e di buio e ne cambia il significato. A chi è indirizzata questa lettera? Scrivo questa lettera rivolgendomi alle sorelle e alle amanti, alle femministe, alle lesbiche e alle donne, a gay, trans, queer e a favolosità di ogni sorta. Mi rivolgo in primis a chi popola quest'isola e lascio che la mia voce vada oltre, perché le questioni di cui vi scrivo ci riguardano tutte e tutti. La mia vorrebbe essere una chiamata alla partecipazione individuale e collettiva per la costruzione di teorie e pratiche antimilitariste condivise, cosa che sento in questo momento ancora più urgente del solito, visto che siamo in piena Trident e se il Sud Europa ne è interessato tutto, la nostra isola, la Sardegna, ne è il teatro concreto di esercitazione. Cos'è la Trident Juncture? Per l'USEUR, Comando USA per l'Europa, è la più grande esercitazione di questo tipo dalla caduta del muro di Berlino. Per il Media Center della NATO è la più grande esercitazione NATO dal 2002. Di fatto la Trident Juncture, che si svolgerà per tutto il mese di ottobre fino al 6 novembre 2015, è un'esercitazione militare che coinvolge 30 stati, 36.000 militari, 60 tra navi e sottomarini e 140 tra aerei ed elicotteri. Le nazioni ospitanti sono Portogallo, Spagna e Italia, in un teatro di guerra simulata che a partire da Gibilterra e dal Mediterraneo occidentale si proietterà verso sud e verso est. L'esercitazione si articolerà in due fasi. Dal 3 al 16 ottobre, adesso, si svolgeranno attività di pianificazione strategica che hanno coinvolto esclusivamente i centri di comando, denominata Command Post Exercise. Dal 21 ottobre fino al 6 novembre si svolgerà la fase operativa vera e propria, nei poligoni, nei porti e negli aeroporti militari degli stati ospitanti e delle acque e nei cieli dell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. Perché la necessità di una partecipazione antimilitarista capillare e perché ci riguarda come femministe, lesbiche e persone appartenenti alla comunità LGBTQ sarda, mediterranea ed internazionale. Il sistema nel quale viviamo, nel quale siamo imbevute, che non ci corrisponde e contro il quale lottiamo quotidianamente dentro e fuori di noi, che è eterosessista, patriarcale e capitalista, che genera violenze e si basa sulla supremazia e le differenze di genere, classe, razza ed etnia, orientamento sessuale, e che si rigenera e ricicla in continuazione cercando di spalmarsi anche nei nostri contesti. Trova nel militarismo una sua massima espressione, come modello di forza, di virilità, che si porti o meno un pene addosso non cambia, di controllo, conquista, potere, accaparramento, uso di una violenza legittimata, uso delle armi per affermare tutto questo. Il militarismo è cultura dello stupro. Lo stupro, violenza intrinseca nel mondo del mondo patriarcale, violenza tragicamente ordinaria in guerre passate, presenti e conosciute, violenza agghiacciante e inenarrabile del nazismo e del razzismo, sempre e comunque, in pace e in guerra, crimine contro il genere femminile, e non da oggi, ma da sempre. Il militarismo difende la necessità dell'uso della forza per la risoluzione dei conflitti e prevede la preparazione della società a quest'uso. Esercito e militari presenti con sempre maggior capillarità nella nostra quotidianità, sedicenti forze dell'ordine nelle varie forme che la divisa assume. Il militarismo non si limita a proiettarsi in conflitti che noi vediamo come esterni, lontani, ma si estende ai confini interni, con la creazione di nemici interni e l'utilizzo appunto di polizie e militari, ad esempio per reprimere il dissenso, come è accaduto, senza andare lontano, al corteo contro la Trident domenica scorsa, e quello che sta accadendo adesso a Bologna, ci aggiungo io, per legittimare la sua massiccia presenza armata, il sistema cerca di fare, tra le varie, un'operazione disgustosamente nota come pinkwashing, passando attraverso i corpi delle donne e delle persone LGBTQ. Questo termine è stato coniato in riferimento alle politiche di Israele tramite le quali esso cerca di ripulirsi per gli orrendi crimini di cui si macchia. Sostenendo la popolazione LGBTQ, il governo cerca di dare un'immagine democratica del paese con lo scopo di contrastare lo sdegno crescente dell'opinione pubblica internazionale per la sistematica violazione dei più elementari diritti umani delle palestinesi e dei palestinesi da parte di questo Stato. I movimenti queer transnazionali hanno chiamato questa strategia pinkwashing, lavarsi nel rosa, in analogia con il greenwashing, operazione di copertura attuata da aziende altamente inquinanti per ripulire la propria immagine attraverso una qualche azione ambientalista. Riconosciamo la stessa radice della violenza eteronormata di quella sul corpo delle donne. Si passa dagli stupri ai pacchetti sicurezza, alla repressione, alla normalizzazione, alla riduzione delle donne a soggetti deboli da mettere sotto tutela, dall'omofobia al tentativo di integrare le soggettività LGBTQ innescando un sistema oppressivo, di neutralizzare ogni tipo di conflittualità creando l'esigenza di essere come tutti gli altri, quei normali che sgomitano e sono pronti a schiacciare chiunque per farsi togliere la libertà in cambio di un leggero riconoscimento. Le istituzioni ti fanno sentire impotente per porsi garanti della tua esistenza, in cambio ti si richiede alienazione e produttività. Devi diventare uno strumento per annientare i suoi nemici. Devi essere paladina della legalità sul piano interno e della civiltà su quello globale. E allo stesso modo il mercato liberista fagocita le differenze per ridurle al merce. Dalle diversità alla diversificazione del prodotto, da soggetti conflittuali a target commerciali. Tramite pinkwashing, pink marketing, omonazionalismo, il movimento gay e lesbico mainstream non solo soffoca i movimenti LGBT radicalmente antineoliberali, ma diventa un efficace strumento per l'avanzamento dell'imperialismo. Questi sono mezzi tramite quali le conquiste e le lotte del movimento LGBTQ vengono strumentalizzate nel tentativo di controllare i corpi e omologare i desideri, vengono usate e cooptate nella guerra contro nemici sapientemente assemblati, nelle politiche militariste e imperialiste e nel razzismo interno generato da questo clima, distraendo dalle violazioni, violenze e crimini che il sistema compie. Wow. di una storia, ma punti tanti sparanza. Sa gente va restrange, ma strange quest'isola. E due gente che c'era di cose, sa con suo nome e con suo sanguinato. E due gente meva differenti, te d'altro santo te pregai. Gente de mari, gente cuile, queste dai a cave su senza, isole di un'isola. Se su isole, messi isola, ten tin tin ta. Corpo di donna, corpi poveri, corpi vecchi, corpi strani, corpi anomali, spazi da abitare, da far appropriare, per farne la loro opera, per modellarla, formarla, metterci il proprio marchio e, se si ribella e se resiste, e se non collabora con la loro oppressione, è un corpo da insultare, da incatenare, da violentare, stupro, arma di distruzione di massa. Patriarcato. Arma di distruzione di massa. Corpo di donna, corpo di povera, corpo di negra, corpo di indigena, corpi strani, territori da occupare. Territorio, ciò che è controllato da un certo tipo di potere. Corpo, ciò che è controllato da un certo tipo di potere. Quale potere? Donde io mando, Helen la foresta, tratto da Porno Trash di Zarra Bonheur. Quando pensiamo ai bombardamenti casuali della NATO, dobbiamo pensare che si sono esercitati qua. Quando pensiamo agli abusi perpetrati dall'esercito israeliano, dobbiamo pensare che si esercita qua. Quando pensiamo allo stupro come arma di guerra sistematica, dobbiamo pensare che gli uomini che stupreranno altre donne, ma pure le donne militari che commetteranno abusi, si sono esercitati qua. La lotta antimilitarista ci riguarda una volta di più, perché donne, perché lesbiche, gay, trans, queer, perché abitiamo questo territorio e se non ci opponiamo alla presenza armata ne siamo complici oltre che vittime. E quest'ultimo termine lo scelgo volutamente perché questo sistema colpisce anche noi che viviamo in questa fetta di mondo, in questa sponda di mare, schiaccia anche noi, cerca di incasellarci e opprimerci, perpetua violenze che ci toccano e perché tutto lo schifo che si riversa nelle basi presenti nel territorio che popoliamo ci avvelena, inquina la terra che respiriamo e grazie alla quale viviamo, ci priva di ogni risorsa, rientrando pienamente nel processo di colonizzazione dell'isola. Come recitava uno striscione notav, manteniamo i nostri corpi e queste terre ribelli e resistenti. Quale che sia la forma di lotta che scegliamo, che sia un volantino o un sasso, una tenaglia, uno slogan, un corteo, un'iniziativa di sensibilizzazione, diamo voce alle nostre differenze in maniera attiva, riconoscendo valore alle stesse. Se ci fosse risposta e possibilità, mi piacerebbe trovare un'occasione di incontro comune, ma il tempo è pochissimo. Rinnovo intanto l'invito alla partecipazione alle iniziative esistenti. Moju. Oggi il mio corpo è tornato normale, siedo e imparo. Il mio corpo di donna, come il tuo bersagliato per strada, rubatomi a 12 anni, come il petrolio venezuelano, con la stessa spiegazione. Sei ignorante, ti insegno io. Poi ridatomi indietro goccia a goccia. Guardo una donna osare, oso guardare una donna. Osiamo alzare la voce, rompere le bottiglie, imparare. Jean Tepperman. Manti now, can castello, che so via tocca nai, dona mio via, ma ia mia santo idese, ti nara o io, filippi che è da vigetta, noi pivizzini, noi preta, ma punti tanti sparalo, zattilite, ma vedi un'istoria, ma punti tanti sparalo, zattilita, sa gente va restrangia ma strangi quest'isola. E noi è gente che c'era di sposa se questo nome e questo sanguina. E noi è gente mela differenti te da trusanti te pregai. Gente de mari, gente coile castellai a cave su sesa isole di un'isola Zesu isole mes isola pentai. E allora sì, bella lettera, un appello sicuramente da questa compagna, e si muoveranno qualcosa in questi giorni in Sardegna contro questa militarizzazione. Magari proviamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane a sentirla dai nostri microfoni e che ci aggiorna su questa situazione. Intanto la salutiamo, un caldo ringraziamento, perché comunque è molto bella. Grazie, grazie infatti. E concludiamo questo spazio con le sue musiche proposte. Una musica, una cantante che si chiama Claudia Arru Pocos, e la sentiamo. Oi la la, oi la la, oi la la la. Zeus bona fai nuda si nanta ca Zeus kenze mentalidadi imprenditoriali si nanta ca no Zeus unu populu unidu poi ta mancu si comprende si nanta ca Zeus u gelosus de dotu e ca no sceu traballa in pari. Pocos, locos y mal unidos, santinaos españoles de nosur. Pocos, locos y mal unidos, madres humiles y incluyentes. Hoy la la, hoy la la, hoy la la la. Sti morta e casora desisci dai. Dovreu ca è troppo bello a pensai ca sti dia deruso di aici. Dovreu ca sora de fai con qua cosa ca vai di abettaia su Salvadori Cagini. Podit salvai gusta terra futi sardus cum voluntadi. Pocos, locos y mal unidos de un ocigre un mancuru bagu. Pocos, locos y mal unidos toccavo neusia traballai. Oi la la, oi la la, oi la la la. Pocos, locos y